da planires autostrada, mai na senda claus. Guliva tras in ciam da tirc alla cercia da ruaus. Il timon ti eres alla roda, ti eres il signal, ed ossa giages ginufant en mi penna sinirà. Selves e sorsaises sauta l'inna cun sulei col urs da l'argent son cennav cul en melen fil satil son gli con friccia da cucumma gli con ciale svin ed ussa flada Jesus.